In particolare, cercando su internet appunto alcune di queste riflessioni, mi sono accorto come il periodo in cui almeno in Italia sono nate la maggior parte di questi testi, non sono tanto gli ultimi anni quanto il periodo che va tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000. E cioè il periodo in cui ci si è veramente accorti di quella che era la pervasività di internet sia nella vita comune, che appunto in ambito storico, in ambito della ricerca storica. E questo cosa vuol dire? Che la rete, il web, ha portato una trasformazione sostanziale di quelle che sono le tecniche e le strategie di comunicazione, sia per quanto riguarda l'accesso alle fonti, che è diventato assolutamente più facile per tutti, nel senso non bisogna più andare a cercare anche solo un libro in una biblioteca, ma basta accendere il computer e vedere cosa si trova. Sia dall'altro quella che è la comunicazione dei risultati della propria ricerca, appunto la possibilità, come abbiamo già detto, di pubblicare comunque molto facilmente, senza nessun costo, quelli che sono i propri risultati. E come terzo c'è anche la possibilità di uno scambio diretto molto più facile nella comunità degli storici, comunque, tra chi comunque pubblica può ricevere delle risposte, aggiornare, cambiare in base anche a quali sono i risultati di questo scambio. E queste riflessioni che ho cercato di raccogliere rappresentano un po' quello che è il rapporto tra gli storici e un mezzo nuovo come può essere quello appunto di internet. Un rapporto che è di sicuro dettato da dei retaggi che sono sia anagrafici che culturali, probabilmente, soprattutto a livello universitario, perché diciamo che per lo più è stato un rapporto di diffidenza, di tolleranza, se non proprio di ignorare completamente il fatto che esista internet. Come mi è capitato anche personalmente il fatto di, nella tesi, di sentirmi dire che no, non è bello se si mette una nota a un sito internet, ma deve essere una nota a un libro. Cioè, questi sono anche un attimo dei sintomi di una diffidenza, anche proprio culturale, probabilmente. E che è dettata anche probabilmente dall'età dei professori universitari che fanno fatica anche ad adeguarsi a quello che è un mezzo a cui non sono abituati. E soprattutto il rapporto è quello di una tolleranza, nel senso di salvaguardare quella che è una tradizione cartacea del libro, anche a scapito magari di quello che possono essere le novità di questa che è comunque una rivoluzione, perché non si può neanche cercare di limitare l'uso di internet per quanto riguarda la storiografia a un settore specifico, che è un altro dei modi in cui ci si è cercati di relazionare con questo nuovo strumento. Ma bisogna anche capire che la rete come strumento intercetta e cambia tutti quelli che sono i modi di produzione della ricerca e di comunicazione della ricerca, senza che questo debba diventare esclusivo, nel senso non vuol dire che è arrivato internet e basta, i libri, gli archivi e tutto quanto non serve più. Ma serve anche la capacità di riuscire a normalizzare il rapporto tra vecchie e nuove fonti. E al pari di tutte queste novità sono cresciute anche una complessità di interrogativi sui processi di trasformazione nella metodologia, nel mestiere dello storico che queste nuove fonti portano. E queste sono legate sia ai contenuti, come ad esempio il fatto appunto stesso se la rete possa essere o meno adeguata a una ricerca storica, oppure la difficoltà, se non per alcuni l'impossibilità, di controllare la qualità delle informazioni che si trovano, e anche invece dalle pratiche, dai linguaggi, quindi il fatto di dover studiare dei nuovi modi di ricerca e di comunicazione, anche dei nuovi linguaggi. Se pensiamo anche a come internet e la rete, soprattutto l'ipertesto, anche prima della rete, della diffusione del web, ha anche modificato in un certo modo anche la scrittura cartacea, se pensiamo ai manuali scolastici, soprattutto quelli dei licei, e a come sono sempre più organizzati con box, riquadri, cronologie, alcuni testi in neretto che rimandano ad alcune pagine. Si vede come quella che è la scrittura di ipertesto, quindi di rimandi, link, ha influenzato anche in un certo modo di ritorno quella che è poi la scrittura cartacea. Quello che è importante, secondo me, è che Internet ha, da un lato, portato anche a nuove forme di primato culturale, nel senso, a nuovi modi di ricerca che per certi versi vanno anche in contraddizione con quelle che sono alcune delle valenze più positive di Internet, nel senso, a quella che è appunto un fondamentale egualitarismo, come si vedeva anche delle varie opinioni su internet, come alla riduzione di tutte quelle barriere di accesso all'informazione che c'erano prima, o appunto all'annullamento tra centro e periferia, comunque la possibilità di mettere in collegamento qualsiasi punto del mondo con qualsiasi altro. E questo pone un altro problema allo sbarco, che è quello che pongono anche tutti i nuovi media, cioè quella dell'interdisciplinarietà, il fatto di dover acquisire comunque delle competenze che vanno al di là da quelle che sono quelle classiche per l'euristica delle fonti che possono essere quelle cartacee, e quindi al riuscire ad acquisire delle competenze che permettano di controllare, quando è possibile, quali sono appunto, come diceva Matteo, no, le modifiche fatte su una pagina web, o anche semplicemente su un documento virtuale, perché molti dei problemi che abbiamo che si pongono con internet sono quelli proprio dovuti alla trasformazione da dover analizzare un documento cartaceo invece che diventa un documento virtuale, quindi capire come si fa ad analizzarne i suoi metadati, quelli che sono le varie informazioni sulla data di creazione, sull'autore, sul contesto in cui è stato creato, il contesto in cui è stato pubblicato. E queste sono tutte delle competenze che poi devono essere acquisite se uno storico vuole essere comunque all'avanguardia, comunque vuole vivere nel proprio tempo, come si diceva. E allo stesso tempo questa cosa vale per i video, per le fotografie, riuscire a capire come analizzare questi nuovi strumenti diventa necessario, non si può più fare altrimenti. E alcune delle difficoltà che nascono dall'utilizzo di internet sono dovute anche al fatto che internet è una fonte assolutamente inesauribile di risorse, e capire quali di queste risorse possono essere utilizzate come fonti è uno dei problemi a cui gli storici hanno cercato di porre rimedio, di trovare una soluzione in questi anni, probabilmente senza mai arrivare a una soluzione definitiva, anche perché non penso che sia possibile, però si è cercato in tanti modi, in tante esperienze, seppur piccole o limitate, di darsi delle norme condivise il più possibile, quindi attraverso la creazione di alcuni manifesti da condividere sui siti che parlavano di storiografie, quindi con alcune regole condivise su come pubblicare online, su, appunto, sulle note, l'autore, le date. E diventa anche indispensabile capire come funzionano quelli che sono i modi che abbiamo per ricercare le informazioni su internet, quindi fondamentalmente come funzionano i motori di ricerca, quindi quali sono i meccanismi automatici che li controllano, e invece quali sono dall'altra i meccanismi che invece guidano altre pagine, tipo quella che è Wikipedia, che funziona tutto in base al controllo degli altri utenti, dei vari utenti. E diventa sempre più difficile riuscire ad arrivare a quelle che sono delle risposte precise a una domanda che stiamo facendo, perché probabilmente su 10.000 risultati che troviamo a qualsiasi ricerca che facciamo, solo una piccolissima parte riguardano l'argomento reale a cui noi stiamo facendo riferimento, e ancora meno sono quelli che rispondono a quelle domande che ci siamo posti nel momento in cui stiamo cercando di fare quella ricerca. E dopo il carattere forse più chiaro, più lampante di quella che può essere, di quella che è stata anche la rivoluzione del web, sono probabilmente i cataloghi online, cioè anche solo l'OPAC dell'università, quello che è il catalogo librario dell'università, già il fatto di poter controllare semplicemente da casa dov'è un libro, se c'è, chi l'ha scritto, tutte le varie informazioni sul libro, è stato un cambiamento assolutamente drastico rispetto a prima, quando bisognava andare nella biblioteca a vedere se c'era, oppure andare di biblioteca in biblioteca per capire dove era un testo che ci poteva servire. E dall'altra, ancora forse più importante e che si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni, è quella delle collezioni direttamente di testi online, che possono essere i vari cataloghi, le banche dati, i vari cataloghi online che sono accessibili anche all'università, come JSTOR o tanti altri, che contengono migliaia e migliaia di riviste di vari temi, e quindi milioni probabilmente di volumi, tutti digitalizzati e tutti completamente consultabili da qualsiasi parte del mondo. E quello che è, quello che esce probabilmente da queste riflessioni, che già per essere scritte da alcuni storici, nel senso sono già degli storici che probabilmente mostrano un po' più di attenzione a questi temi rispetto alla stragrande maggioranza, è comunque quello di una difficoltà forte di relazionarsi con questo nuovo strumento. Cioè, se cerchiamo su internet qualche nome di professori universitari e cose così, sono molto pochi i risultati che troviamo anche riguardo alle loro pubblicazioni. E quello che è più lampante è proprio il grosso lavoro da fare che c'è ancora, cioè il grosso lavoro da fare che probabilmente continuerà a esserci, perché non penso che sia possibile trovare un controllo sulle notizie che abbiamo che sia valido sempre in ogni momento. Semplicemente sta poi allo storico, sta a noi anche cercare di portare quello che è l'approccio critico, che in un modo o nell'altro dovremmo acquisire in questi anni di università, alle nostre ricerche online, senza avere dei pregiudizi né a sfavore né a favore, sia di una fonte che dell'altra. E quello che è stato un po' i tentativi di dare queste risposte, appunto, con i vari manifesti, oppure l'idea di riuscire ad avere degli standard di pubblicazione che fossero anche a livello internazionale. Molti storici hanno cercato di porre questo problema su un livello puramente tecnologico, nel senso che i motori di ricerca, rispetto anche solo a quando iniziavamo magari a usare internet, che poteva essere, boh, una decina di anni fa forse, sono cambiati e funzionano anche in modo diverso e per certi versi migliore, nel senso di sicuro rispetto a quello che poteva essere un po' di tempo fa, una ricerca ti porta di sicuro dei risultati più pertinenti a quello che stai cercando tu. Però quello di cui si sente la necessità in questi testi è proprio quello che sia una volontà anche politica di cercare una forma dei criteri uniformi e condivisi anche a livello internazionale per quello che possono essere appunto le risorse online, per quella che può essere la loro rintracciabilità, la loro modificabilità, la loro alterazione, che sia volontaria o meno, il loro accesso, cioè trovare dei modi per cui si possa risalire comunque a quali sono le modifiche, a da dove arriva un testo e di quali là. E questo è quanto fondamentalmente, che i testi appunto, fondamentalmente i testi che ho trovato io sono quasi tutti presi da una rivista online dell'Università di Firenze che si è occupata molto di questi argomenti, che si chiama Chromos, e poi sul sito metteremo un po' di link di questi testi qua. E credo che comunque ci sia di sicuro sempre bisogno di una di una continua discussione, di un continuo confronto su questi temi. Anche probabilmente nell'ottica di non arrivare mai a una soluzione che sia definitiva, ma un continuo anche avanzamento, anche rispetto a quello che sono poi le continue novità dal punto di vista del web, dal punto di vista informatico. Adesso lascio la parola a Tino. Dunque, quindi siamo arrivati un po', diciamo, all'approdo della nostra lezione. Spero in teoria dovrebbe rimanere magari anche un po' di tempo per chiacchierare con voi. Ma da super lui, che è un'espressione che non ho mai sentito. Internet come uno strumento legato al capitalismo cognitivo. Non so proprio cosa voglia Sì, in dire. realtà è lo stesso, cioè, come prima era una cosa un po' complicata, però mi sembrava giusto inserirla, poi sostanzialmente come ci sono l'ho spiegata affatto. In realtà il capitalismo cognitivo riguarda tutta quella serie di professioni che producono essenzialmente idee, cioè che non lavorano in una maniera materiale, adatto in maniera proprio semplice possibile, lavorano con il pensiero, se vuole, cioè producono una serie di idee che sono funzionali comunque una ricerca accademica, o comunque sono utilizzati anche da altre persone. Cioè, perché internet è importante? Perché ha cambiato profondamente il modo di lavorare, di chi vive utilizzando le proprie idee. Perché, appunto, come si diceva prima, permette moltissimi di entrare in comunicazione, perché l'approccio che adesso può avere una persona che sta facendo ricerca o che deve scrivere un libro è profondamente diverso rispetto a quello che poteva avere uno studioso 70 anni fa, quello che gli strumenti del capitalismo cognitivo erano al massimo, non so, il telefono, immaginando che potesse avere una funzione di collegamento tra lui e un altro studioso. Quindi in questo senso ha agito profondamente perché ha cambiato proprio la modalità di lavoro, apportando delle modifiche sostanziali a chi appunto produce, si sostenta con la produzione di idee, in questo senso. Cioè, Sì, mi non interessa di più. solo, cioè, aggiungerei il fatto che il discorso del capitalismo cognitivo è legato al fatto anche del valore della merce, nel senso, fino agli anni 60-70, secondo alcuni studiosi, avevamo un capitalismo per cui c'era una forma di produzione fordista, le grandi fabbriche e così via, quindi la merce era il prodotto finale di quel modo di produzione. Con l'avvento delle nuove tecnologie, condivido appieno quello che ha detto Teo, in più c'è il discorso che diventa merce anche la produzione di idee, cioè nascono tutta una serie di professioni legate alla rivoluzione informatica, alla rivoluzione digitale, che ha completamente rotto il meccanismo fordista. Voglio dire, il capitalismo di oggi non è più il capitalismo della fabbrica, o meglio, in Cina è ancora così. In Europa, nel mondo occidentale, abbiamo avuto l'enorme espansione del terziario, è stata finita da alcuni il capitalismo cognitivo, per cui voglio dire, noi non abbiamo più la fabbrica sotto casa, ma produciamo attraverso il computer, attraverso appunto il terziario. Quindi diciamo, all'interno della categoria capitalismo cognitivo rientra tutta quella produzione che mercifica la La produzione produzione immateriale. immateriale, esatto. Cioè è tutto un filone. Invece poi un'altra cosa, diciamo più su quello di cui si discuteva oggi, ma non solo, perché per esempio sia quello che diceva lui adesso sulla discussione alla fine della terza, per esempio su trovare dei criteri, no, per fare per esempio anche delle regole condivise a livello globale, visto che è uno strumento globale per comunque certificare in qualche modo ciò che si produce. Sia quello che diceva lui su fondamentalmente il fatto che non è una struttura gerarchica, perché non c'è comunque una struttura gerarchica. Non sono tanto convinto di questo, perché a pensarci bene, no? Per dire, per arrivare a un libro c'è una struttura gerarchica che se vuoi risalire dal lettore parte da chi stampa il libro, chi lo produce, eccetera, eccetera. Tutto il sistema poi di leggi che regolano, no, queste attività. Se invece anche un sistema come Wikipedia ci pensi, è vero che io potrei andare e dire no, questa voce non è corretta, però chi decide poi effettivamente? Cioè chi ha il controllo su Wikipedia? È soltanto il signor Wikipedia. Cioè chi ha il controllo su Google è esclusivamente il signor Google. Poi possono esserci delle regole, diciamo, che si sono autodati, no? Ma io non ho nessuna possibilità di incidere su Google. o su qualsiasi altro motore di ricerca. Cioè in realtà è molto più gerarchica della realtà, la realtà virtuale, perché comunque tant'è che ti porta a dover riflettere, no, a delle regole di governo mondiale, no? Non c'è neanche più, io almeno diciamo negli stati, no, o comunque nelle nazioni, hai la possibilità di dire va bene, in questa nazione vivo di merda, vado in un'altra nazione, cioè se proprio non ci sta. Invece in questo modo tu ovunque vada, comunque quando ti connetti devi rispettare una regola che è globale, no? Stesso poi se possiamo riportarlo, diciamo, la democrazia è una violenza della maggioranza sulla minoranza, cioè non ho la possibilità di scelta, comunque, cioè non c'è nulla di democratico in realtà, perlomeno non così tanto. No? Sì, nel senso, è proprio un punto interessantissimo che veramente... Lo so, stavo pensando anche a tutti. Ah, se sponiamo... Allora raccogliamo tutte le... Io volevo dire più o meno la stessa cosa sua. Poi come questa cosa, come è interessante, come questa cosa assomigli tantissimo a quello che Marco ha fatto con gli anni. Cioè, io che sono il dio dell'industria, come il signor Wikipedia, il dio di Wikipedia, il signor Google, il dio di Google, propongo a te, singolo, quindi non più collettività sindacale, ma singolo individuo, di accettare o meno la subordinazione alle mie regole. Quindi assolutamente, secondo me, internet è assolutamente la negazione da questo punto di vista della democrazia, intesa come ognuno ha la sua opinione, la sua opinione, no, mi fa piacere, esatto. Per me invece la tua opinione non vale assolutamente nulla, in quanto l'unica opinione che vale è la mia, che ti impongo le regole, anzi la tua opinione non vale praticamente tanto niente, che chiunque la può modificare in primo luogo. In secondo luogo, se tu hai fatto 5 anni di studio e poi non hai scoperto niente, chi se ne frega, va detto allo stesso modo, ok? Anzi, magari lui anche ti prova a scrivere, quindi alla fine quello che prova a scrivere riesce a sviluppare di più. In terzo luogo tu sei obbligato comunque a subordinarti, perché se non lo fai non esisti. Non esisti nel senso che non puoi scrivere l'unico sito che viene ascoltato, perché certo, come economia esiste l'industria familiare piccola, però l'industria familiare piccola è di nicchia, quindi ci vanno in pochi. Invece su internet, certo, c'è il sito che fa il laboratorio Lapsus, ok, invece su sito che vai in 7, ok? Quindi vedo, ok, sono cambiati, quindi c'è esattamente una proposizione. Poi in terzo luogo bisognerebbe anche una cosa sul tempo, cioè dite ci interessa per la storia eccetera eccetera, in realtà però quello che succede, questa è una cosa che ho detto su tutti i scuola in una lezione che avevo fatto storia moderna, lui ha parlato del concetto di modernità e ha detto di modernità è stata interagata al tempo, quello che stiamo vedendo è proprio la concezione del tempo. Qual è la concezione del tempo che abbiamo noi? Che il tempo sia un continuamente essere presente o continuamente innovarsi, quindi non più un guarda passato, ma un continuamente creo il nuovo. Quindi ad esempio, perché Obama vince? Obama vince non perché dice ah come ha fatto Bill Clinton, io no, dice yes we can, cioè io creo, io faccio qualcosa di nuovo, io sono nuovo e io continuamente ci sono. E secondo me questo è deleterio altissimo per la storia, perché elimina, veramente le persone, la storia. Quindi secondo me internet, se può funzionare, può funzionare più come la raccolta dei documenti, che so, l'unità che prende tutti i suoi documenti e li mette in internet. Ma in questo senso, cioè appunto come fonte di documenti, come fonte di giudizio, secondo me è iniziata quello che dicevo al 2000. Sul discorso del tempo avrei approfondito il discorso io nella conclusione, quindi Io volevo un attimo ritornare al discorso che è appunto interessantissimo, che avete tirato in ballo del controllo e della gerarchia di internet. Secondo me questa cosa è vera in parte, è verissimo che il web comunque non è un mezzo assolutamente libero, per cui esiste assolutamente una gerarchia, magari più nascosta o diversa della gerarchia delle fonti tradizionali, esiste sicuramente. Però per la sua stessa costituzione il web si struttura come una rete, cioè come un sistema con tantissime relazioni, però con un grado di gerarchia e di controllo molto inferiore rispetto ad altri strumenti. Si parla sempre di produzione di conoscenza, nel senso, rispetto ad altri strumenti tipo l'editoria o altri strumenti che producono comunque conoscenza. Quello che io ho soltanto accennato è che effettivamente comunque è vero che il controllo finale di Wikipedia corrisponde al signor Wikipedia, però la struttura che è propria di questa enciclopedia online è proprio quella dove non c'è una struttura autoritaria in grado di fare da redattore finale di ogni voce, cioè il signor Wikipedia non controlla una per una le voci di Wikipedia, perché farlo sarebbe impossibile, ma anche per una scelta ben precisa, perché appunto si basa su un meccanismo di selezione dell'attendibilità delle fonti in cui ogni utente è libero di rileggere, verificare e postare. Per cui automaticamente, in un certo senso, se vogliamo trarre una conclusione paradossale, la verità è quella che l'utente dà. Cioè, se tutti gli utenti si mettono a criticare un testo, automaticamente, secondo la concezione del signor Wikipedia, quel testo sarà più affidabile di un testo che è stato redatto da una sola persona. Poi è vero che comunque il web risponde anche a gerarchie economiche, per cui sicuramente Google in Cina non sarà così efficace come Google in Europa, e sicuramente risponde a gerarchie di potere che esistono in tutto il mondo. Però tenete conto del fatto che veramente un progetto come Wikipedia, come altre wiki, sono partiti veramente da risorse minime, senza stare a guardare a social network come Facebook, anche lì comunque sono partiti da strutture gerarchiche veramente minime. Comunque, la differenza forse fra il sito di Lapsus e il sito di Wikipedia è appunto la conoscenza, anche perché comunque il sito di Lapsus ha una struttura meno aperta. Questa struttura meno aperta viene in un certo senso penalizzata dal web. Il web funziona per le strutture estremamente aperte, perché tutti gli utenti possono andare lì, scrivere, ovviamente questa dà la possibilità a tutti gli utenti di ingigantire il progetto web. Paradossalmente forse la pagina più rivoluzionaria del web è una pagina vuota, scritto, ogni utente scrive quello che vuole. Contrariamente, in pochi mesi quella diventerebbe una pagina cliccatissima, perché gli utenti avrebbero la possibilità di interagire con questo mezzo. Sì, sarebbe interessante provare cosa succede. Però secondo me questa cosa la fa assomigliare molto alla Babele biblica, dove tutti assolutamente. E però così non lavora. Ma certo, questo infatti, è un rischio incredibile. Infatti, d'accordissimo. Ha molto senso se c'è l'istituzione che sul territorio ha un valore che mette su pagine online, perché lì c'è un valore vero, reale. Certo, certo. Infatti adesso dai, cioè, solo... così secondo me è proprio... Perché se no scrivi il problema prima, devi fare la regola mondiale, e allora poi la regola mondiale te la stabilisce il governo mondiale. Certo, un po' il discorso di chi controlla i controllori, chiaramente. Certo, certo, che comunque, voglio dire, l'ONU esiste, sì, però c'è anche chi dice, sì, vabbè, l'ONU dice questo. Ma infatti... Se non è la parente, comunque, in teoria c'è... Perché no, beh, noi qua abbiamo la NATO, quindi certo. Pazienza. Ah, un aspetto in senso interessante era appunto per sottolineare molte volte la distanza fra quello che è la ricerca e l'affidabilità che ci richiede la ricerca e la struttura del web. Come dici tu giustamente, molto spesso ci vuole forse un'istituzione che a un certo punto scremi tutta la produzione informativa che viene fatta su internet e dica no, 50% sono cazzate, 50% sono affidabili. Verissimo, certo. Io sono abbastanza d'accordo sul fatto che la produzione storica e scientifica richiede una certa gerarchia, nel senso che si deve dare la precedenza a fonti più affidabili, questa è in un certo senso la gerarchia. Il che poi non so adesso no, se. Se no i testi neanche per niente. Sì, questo come ti dicevo prima, ha obbligato. Ma ha valore tanto quanto il mio, il Bossi che si laurea, cioè che si laurea, prende il diploma di elettrotecnico, ha lo stesso valore di un medico che ha fatto 12 anni magari di. Cioè il rischio di internet secondo me che sia qualcosa anche forse penso di questo. Portato un parallelo all'eccesso, sì, può essere. Se stabilisce la regola, è un figlio incredibile, poi ci porta alla democrazia, che in realtà poi ha avuto sul. Sì, nel senso, è democratico perché permette l'accesso a tutti. Poi sì, che questo però, accesso a tutti è vero o no? Cioè, diventi un'enorme discussione in cui nessuno prevale, alla fine diventa estremamente caotico, è sicuramente uno dei rischi del web. Però da un certo punto di vista è una ricchezza, perché ci dà la possibilità di accedere a veramente una quantità infinita di dati. Sì, questo è chiaro, soprattutto dal punto di vista documentaristico altissimo. Certo, poi appunto il problema diventa quando gli storici cercano di fare storie come intendono loro, come sarebbe corretto fare quando vogliono farlo su internet. Allora lì le differenze, proprio ma nell'impostazione, ma abbastanza dichiarata, nel senso che internet comunque non nasconde questo suo livello caotico, anzi ne fa un punto di forza. A questo punto poi la ricerca scientifica e la ricerca su internet comunque non sempre coincidono. Hanno dei punti di coincidenza, però appunto, come abbiamo cercato più che altro di problematizzare noi, ci sono anche dei punti di criticità che vanno tenuti presenti, il che non vuol dire che il web non funziona, però vanno tenuti presenti tutte le volte che ci approcciamo, questo sicuramente. Aggiungo, sottoscrivo quello che ha detto lui, però cioè, secondo me lui pone un problema decisivo, nel senso che poi, allargando un po' il discorso, è poi il discorso, cioè, una delle questioni legate all'esplosione di Facebook. Per cui l'utilizzo di internet come questo incredibile strumento di democrazia, finalmente l'arma dell'arma totale per bloccare il potere. Puttanate incredibili. Cioè, nel senso, trovatemi una volta in cui le petizioni che vengono fatte su Facebook sono risultate efficaci. No, ma assolutamente mai. Quali idee si diffondono su Facebook? Non ho capito. Quali idee si diffondono su Facebook? quali link sono i pubblicati, sono quelli dei nuovi comuni. Sì, sostanzialmente sì, o comunque, ma soprattutto, cioè, il problema enorme del rapporto tra democrazia, potere e internet è un problema, voglio dire, enorme, perché però secondo me ha anche un valore limitato, nel senso, non è cioè, internet, così come tutti i vari, appunto, Facebook, YouTube e così via, non sono altro che dei canali che veicolano informazioni, molto caotici. A connettere a questi canali una sorta di potere, di influenza e così via, secondo me è, in questo momento è un errore madornale. Cioè, appunto, come dici tu, in realtà si diffondono luoghi comuni, cioè non è vero che sposti qualcosa a livello politico utilizzando questo tipo di strumenti, è però un canale in più che si è aggiunto. Cioè, secondo me il modo in cui va inteso in questo momento l'utilizzo di internet, poi adesso ritornando un po' a quello che è il nostro terreno per la storia, cioè anche facendo un'operazione di realismo, cioè dirsi, è vero, ha dei problemi enormi, delle criticità forse superiori a quelli che sono gli aspetti positivi, però dall'altra parte non se ne può fare a meno, ma non tanto perché hanno messo sulle balle, ma perché miliardi di persone lo utilizzano. Cioè, capisci? Il problema è proprio questo, cioè il problema di fondo, forse il nodo centrale di questa lezione, che è un po' la conclusione che noi volevamo dare, è problemi incredibili, criticità forse superiori agli aspetti positivi, però voglio dire, nel momento in cui hai milioni se non miliardi di utenti che usufruiscono di questo prodotto, come possono gli storici girarsi dall'altra parte e dire no, quello strumento lì fa talmente schifo che io non ci sto dentro? Secondo noi è un errore madornale. No, anzi, poi proprio il fatto che ci sia questo tipo di gerarchia, esatto, impone un rapporto. Cioè, noi nella conclusione, io mi l'ho scritto, se voi vi andate a fare un giro, ancora prima che in internet, nelle librerie, c'è un tale caos, ma soprattutto una tale assenza di libri di storia, o meglio, non è un'assenza, perché in realtà le librerie sono piene di libri. Il problema è che, voglio dire, quanto vendono questi libri di storia? Pochissimo. A me è capitato, avrei voluto proiettarlo oggi, ma non sono riuscito a recuperarlo. Qualche settimana fa è uscito l'ultimo libro di Bruno Vespa, ora poi farà ridere, però quello è un problema da affrontare, è un po' il contraltare di internet a livello di diffusione. C'era questo schema sul Corriere dove diceva: il primo libro 10 anni fa ha venduto 50.000 copie, il secondo 100.000, il terzo 200.000, il quarto 500.000 e adesso ne vende tra le 5 e le 600.000. Allora, pensate voi, quanti libri di storia vendono 600.000 copie in Italia? Nessuno storico, neanche a me, nessuno storico in questo momento in Italia che sia, voglio dire, comunque una questione che ha sollevato anche la professor Canale, sì, no? Esatto. Nel senso che qui in Italia manca un livello intermedio tra la produzione altamente specialistica, sì, chiaro, però voglio dire, internet potrebbe, per esempio, secondo me, coprire questa lacuna, nel senso che, esatto, uno potrebbe anche scrivere un testo senza note, con una precisazione, nel senso questa produzione è basata su queste opere, nel senso che lì ci sono le opere specialistiche con tutta la parte di note, cioè, che se vuoi ti vai a vedere. Quindi si dà, esatto, il riferimento specialistico e la divulgazione un po' più allargata, cioè, perché altrimenti soltanto Bruno Vespa, eccetera, esatto, eccetera. Cioè, il problema è finché gli storici acquista i suoi libri e pensano che quella lì sia solo loro che siano i depositari del, esatto, pure degli utili, allora, ma infatti non stavo dicendo quello, sto dicendo però attenzione, cioè il problema, a me non frega nulla che Vespa venda 500.000 copie, anche perché secondo me in realtà è l'1% degli acquirenti o di chi lo riceve in regalo che lo legge in realtà, perché poi secondo me la maggior parte dei libri finiscono sotto i tavoli, se c'hai il tavolo che c'ha la gamba rossa, cioè non sono così convinto che i libri di Vespa vengano letti, però su 500.000 copie che l'1% legga quel libro è comunque molto di più di quanta gente legge un libro di storia fatto in maniera metodologicamente, voglio dire, corretta. Però il problema è, ripeto, a me non me ne frega nulla che si vendano libri di Vespa, il problema è che gli storici non scrivono libri di divulgazione, cioè se voi andate in libreria ci sono pochissimi gli storici che scrivono libri di divulgazione accessibili a un pubblico medio, così come sono pochissimi gli storici che pubblicano i loro articoli approfonditi o meno, che magari siano delle introduzioni, che siano comunque delle cose usufruibili da un pubblico vasto, su internet. Allora, il problema che noi volevamo porre con questa lezione è: gli storici non possono più permettersi di girarsi dall'altra parte. Scusa, ti ho interrotto, poi concludo. No, che adesso su, siccome si parla appunto di Italia, il caso Vespa comunque al di là della, è una questione italiana, diciamo. No? Il problema è che qua comunque abbiamo anche un'inflazione, se vuoi, di storici, è per questo che in realtà poi può vendere più un Vespa che scrive una storia di 50 anni, la storia di Donna del Duce, che, nel senso, banalissima, se vuoi, prendi anche solo il più spiegato paesino di qualsiasi parte d'Italia, no? Metà delle case hanno più di 300-400 anni di solito, perché comunque è passato di lì il duchetto, il principino, il, non so, il conte dei quattro fiumi di quella zona, no? Che ha fatto la sua casa, quella del vicino e dei quattro parenti, rimane un centro storico che, se tu lo sconti, c'è di sicuro un paese in America, una, cioè, se lo comprerebbe, ne farebbe una Disneyland storica, no? E tutti sarebbero interessatissimi a sapere Patteon che avevano un castello di Barbapesca. Qui, cioè, prendi un piccone, fai un buco, no? E dici, ah, tu hai un muro romano. Però andare ogni volta, no? Con questo continuo, diciamo, ritorno sul tema, a un certo punto diventa quasi un problema più che una questione da problematizzare, nel senso che sei talmente assediato da dati, no? Già solo Milano, metti conto, pure non andare lontano, ha un patrimonio storico-culturale che è infinito, cioè al di là del suo patrimonio come città, l'incontro di culture, eccetera, che non è facile da digerire, nel senso se vai già e non c'è nemmeno una struttura, nel senso che poi c'è la storia della chiesa, che tende sempre a essere presente ma a parte, no? E poi se vai in Francia, non so, cultura laica comunque ha delle fondamenta talmente solide che poi è anche facile individuare qual è la storia da divulgare. Adesso qua in Italia qual è la storia da divulgare? Il problema è anche questo. Cioè, non so, banalizzando, a Sanremo hanno detto, hanno preso due canzoni, una fascista e una partigiana. Si riduce a questo, non lo so perché, capisci, oppure più ampiamente, l'età moderna inizia nel 1789, dico come io ho studiato alle medie, no, o nel 1848. Però, ti fermo nel senso perché, cioè, problemi enormi, cioè, in realtà lo spirito del laboratorio era far emergere tutto questo delirio di problemi, quindi almeno, cioè, sembra quasi che funzioni. Nel senso, senza scoperchiare ancora di più perché poi impazziamo. Uno dei problemi centrali del laboratorio, che forse è un po' la domanda che potrebbe fare da cappello a tutti i problemi che tu hai posto, è: che storia serve oggi? Cioè, a cosa serve la storia e che storia serve oggi? Nel senso, noi, come Lapsus, quando abbiamo pensato al laboratorio, e in generale nell'approcciarci al nostro lavoro, è un po' la domanda che ci facciamo da mo', nel senso, è vero che in questo paese c'è, ogni paese, ogni angolo della strada puoi scrivere una storia, però è anche vero che, e questo potrebbe essere uno dei ruoli che gli storici dovrebbero assumersi anche all'interno di uno strumento come internet, cioè cercare di fare un po' di ordine, cercare di essere degli strumenti chiari in un mondo vastissimo per dire, vabbè, io ti do qualche input per cercare di mettere un po' di ordine nella tua testa in tutto il caos che hai. Cioè, vuol dire, oggi serve la storia di piazza di via Mercalli 23 all'angolo con l'ospedale, come si chiama, con Gaetano Pini, quello lì, oppure serve cercare di alzare lo sguardo dal quadro e capire quali sono gli strumenti che hai a disposizione, ma guardando per esempio all'evoluzione, cioè a una storia più globale, oppure, cioè, nel senso, il problema è proprio quello, cioè quando noi ci interroghiamo su che storia serve oggi è perché penso di parlare a nome dei componenti di Lapsus, ci poniamo il problema di dire, sì, ma minchia, basta con la storia dei cappellai di Monza e la storia dell'Università Statale di Milano, per carità, importantissimi, ma cazzo, ci saranno altri problemi per capire il mondo contemporaneo che interrogarsi su quella storia lì. Allora, adesso, poi siamo forse un po' degenerati in mille direzioni diverse, però per tornare sul tema della lezione, per esempio, adesso perché poi finisce quelle due robe di conclusive che ci eravamo segnati, ve le vorrei dire. sempre in termini di problemi, e andando per punti. Per esempio, sarà internet uno strumento per uscire dalla storia eurocentrica, ripensando anche alla lezione della professoressa Pizzetti che avete fatto al laboratorio? Forse sì, però in che modo? E qui viene fuori il tuo problema, nel senso, in questo momento è un caos totale. Dall'altra parte però è un caos dal quale non ti puoi sottrarre, nel senso, almeno secondo noi, nel senso che è un canale di comunicazione imprescindibile, è un luogo dove puoi raccogliere una quantità di documenti che prima non avevi, e quindi voglio dire, comunque è una sfida da affrontare. Dall'altra parte, sul discorso dell'eurocentrismo, riflettendo su quando sviluppavo questo punto, era è vero che esci dalla storia eurocentrica, però dall'altra parte in che storia vai a finire? Perché, per esempio, voglio dire, se tu vai a studiarti quanti milioni di utenti ci sono in Cina di internet, in Cina, voglio dire, non è che sia un sistema così caotico internet, è un sistema controllatissimo, ovviamente, perché c'è la censura, e quindi, voglio dire, i cinesi molto probabilmente, sarebbe una cosa da studiare, non hanno tutti questi problemi di caos, perché a livello di storia mondiale della Cina avranno una e una sola verità usufruibile, a meno che, voglio dire, ci siano i blog dissidenti, ma voglio dire, è un problema enorme. Quindi c'è problema su cui interrogarsi: verso che storia si va attraverso l'utilizzo di internet? Primo punto. Secondo punto, il discorso del tempo. Sono d'accordissimo con la riflessione che facevi. Uno dei pericoli enormi che determina internet è il discorso della velocità, cioè che è un po' una delle caratteristiche fondamentali della società contemporanea, che è una società sempre più veloce e in continua accelerazione. Ormai, voglio dire, un fatto storico è una roba di 3 giorni fa, gli scenari cambiano in maniera, voglio dire, dirompente, e fai fatica a trovare, voglio dire, un tempo lungo in cui cioè, a cui dare una prospettiva, fai fatica a dare una prospettiva su un tempo lungo come poteva avvenire con un libro di storia di 20 anni fa. Vuol dire, uno dei problemi che si sono affrontati nella prima lezione, gli annal erano una scuola storiografica che funzionava perché all'inizio del Novecento fa un'operazione di lungo periodo e si inventa la storia sociale e così via. Oggi quella roba non funziona più. È un metodo che, per carità, è stato fondamentale, in certi momenti può ancora essere utile, ma con la velocità che ci impone la società contemporanea scoppia. Quindi, il problema del tempo. Come gestirlo? Come, voglio dire, altro problema. Terzo problema, che è una cosa che ho già citato sul discorso della Cina e degli utenti, l'uso politico che si fa della storia in internet. Problema enorme, che hanno già affrontato loro e su cui non mi dilungo. Conclusione. Forse un po', voglio dire, un po' in piccolo, cercando anche di essere propositivi, abbiamo bisogno di voi. In che senso? Nel senso che, riflettendo, ripeto, forse in maniera ingenua, non è una risposta, è un modo per problematizzare, però nel nostro piccolo crediamo che ci sia bisogno, mai come oggi, di voglio dire, essere, fra virgolette, avanguardia. Ora, passateci il termine, assolutamente non presuntuoso, però voglio dire, nel nostro piccolo, come laboratorio, il problema è, cominciando forse a porsi questi problemi, possiamo cominciare a scavare nella direzione che, voglio dire, chissà mai ci porti a cominciare ad utilizzare nella maniera corretta queste nuove fonti, questi nuovi strumenti. Essere avanguardia oggi probabilmente vuol dire anche porsi questi problemi, cosa che gli storici non fanno, come abbiamo detto. Gli storici non sono su internet, gli storici non hanno dei loro siti internet, se ce li hanno, hanno dei blog, non riescono a utilizzare questo strumento in maniera efficace, in maniera organica, in maniera utile. Forse è il caso che noi, nel nostro piccolo, voglio dire, visto che studiamo da storici del futuro, cominciamo ad ingegnarci per affilare gli strumenti. E quindi, insomma, l'invito che vi facciamo concludendo la lezione è: se vi interessa, voglio dire, darci un contributo, darci una mano, entrare a far parte dei nostri progetti, noi andiamo in quella direzione. Voglio dire, se voi andate sul nostro sito, per carità, è vero, ci vengono 40 persone al giorno, è una roba che è una gocciolina minuscola in un mare enorme, però voglio dire, quello che si può fare è dare dei contributi, dare degli esempi, cercare di porre dei problemi in una direzione, sempre in maniera critica e in maniera problematica. Noi nel nostro piccolo negli anni abbiamo provato a produrre dei video, a produrre dei documentari, a proporre la storia in un certo modo su internet. Ripeto, nel nostro piccolo noi ci proviamo. Questo laboratorio era un modo per porre questo problema, mancano ancora una lezione, due lezioni, quindi vuol dire, non è finito, però il problema è proprio quello. Voi e noi che siamo ancora studenti, che però saremo chi più chi meno, insegnanti, storici, giornalisti, disoccupati, nulla facenti del futuro, vuol dire, se avete voglia di intraprendere, di studiare in questa direzione, vuol dire, noi pensiamo che sia davvero un tema cruciale da qui ai prossimi anni. Diciamo le ultime. Non so, pensando così, al di là, cioè, teoricamente ogni laboratorio dovrebbe finire con un lavoro finale, cioè, non è nostra volontà imporlo perché non fa parte del nostro modo di lavorare, però appunto, visto che questa discussione ha sollevato un sacco di interesse in voi, come dicevo prima, sarebbe carino che chi ha tempo, ha voglia, appunto, compatibilmente con i mille impegni, si mettesse qualche minuto a cercare su internet e a provare a fare un po' il lavoro che abbiamo proposto noi, cioè magari scegliere una pagina da consultare, magari anche da esporla pubblicamente, magari scrivere qualcosa anche da mettere sul nostro sito, perché poi, non so, ci è venuta anche l'idea di produrre noi stessi una specie di pagina wiki, che abbia come argomento appunto internet e la storia, che sia aperta a tutti i frequentanti del corso, dove ciascuno di voi possa appunto mettere il suo contributo, la sua idea, i suoi approcci, e vedere un po' cosa ne viene fuori. Magari appunto partendo da una voce di Wikipedia, vedendo come funziona, una voce che vi piace, una voce che vi fa schifo, una voce che ritenete assolutamente ideologica o fatta malissimo. Non so, vedete voi. Se ovviamente questa proposta vi interessa, noi possiamo anche dedicare magari un po' di tempo all'ultima lezione, non so, una mezz'ora o anche di più, a chi vuole esporla e a chi vuole, non so, portare magari le idee, riflettendoci sopra, nel senso, avete comunque tempo, perché abbiamo ancora 2 settimane, quindi nel senso avete tempo per ragionarci sopra e per far maturare quanto abbiamo detto stamattina. Se vi interessa, noi, cioè, una cosa che ci piacerebbe fare con voi per condividere un po' lo spazio di discussione, anche perché vedete come noi, cioè, come avete visto, non è che abbiamo delle risposte preconfezionate. Ci piacerebbe appunto elaborarle con voi, perché in fondo i problemi che affrontate il nostro laboratorio sono gli stessi che affrontano tutti i giorni gli studenti di storia che devono approcciarsi al mezzo d'ora. Quindi se vi va, noi disponibilissimi, e se invece qualcosa di interessante, mi piacerebbe anche mettere uno spazio wiki sul sito aperto appunto a tutti i partecipanti del corso, con la possibilità di discutere tutti assieme, per vedere anche poi cosa succede, se questo è un mezzo che vi interessa da parte di qualcun altro, oppure se cade nel dimenticatoio. Questa è un po' la proposta che vorremmo fare. Visto che sono le 12:30, calendario prossime lezioni, e poi Zeno, tu c'hai il foglio firma? E poi facciamo firmare. Questa era l'ottava lezione, ne mancano due. Adesso andiamo regolari per 2 venerdì. Uno venerdì, cioè sostanzialmente l'ultima lezione, perché poi la reale ultima lezione sarà sostanzialmente la registrazione dei crediti e magari un confronto con voi sul laboratorio. Venerdì prossimo invece, sempre 10:30, sempre qui. Lezione un po' a sorpresa, no? Nel senso, siamo in ballo con due possibilità. Una su la lezione sugli audiovisivi, che anche quella, una fonte incredibile per lo studio della storia contemporanea, ci fosse uno storico che ha voglia di parlare di fonti audiovisive. Quindi stiamo lottando da mesi per trovare una persona che ci faccia questa lezione, ma non riusciamo a trovarla. Se non riuscissimo a fare la lezione, cioè lezione c'è comunque, se non c'è la lezione sugli audiovisivi, ci sarà la lezione sulle fonti giudiziarie, tenuta dal professor Aldo Giannulli, che è un docente di scienze politiche, insomma, che si è occupato per esperienze dirette di fonti giudiziarie, perché anche le fonti giudiziarie, per quanto riguarda i processi, le sentenze, i documenti che vengono raccolti, possono essere una fonte, voglio dire, molto importante per gli storici. Quindi comunque venerdì prossimo c'è lezione, il laboratorio si conclude il 17 con panettone, crediti, chiacchierata e saluti. Grazie.